Bene, siamo lodati Gesù e Maria. Con grande gioia riusciamo quest'anno almeno un po' a solennizzare la festa del nostro grande patrono. Guardate che San Giuseppe è il più santo dei santi, quindi tra gli esseri umani è il numero uno. Poi vabbè, c'è la Madonna che è un essere umano, ma la Madonna è più santa pure di tutti quanti gli angeli messi insieme. Ecco, però tra gli umani San Giuseppe è il numero uno, perché capite bene che il nostro Signore, che non ha bisogno di prendere lezioni da nessuno, non avrebbe affidato mai tesori immensi, cioè la custodia del suo figlio fatto uomo e la custodia della creatura più grande che abbia creato, che è la Madonna, peraltro anche patrona della nostra parrocchia, se non ci fosse stato un uomo veramente straordinario. E il Vangelo che abbiamo letto e che oggi ricommentiamo bene, sapete che San Giuseppe, proprio perché era così grande, come tutti i grandi, San Giuseppe scompare, perché quelli che sono grandi, quelli che sono santi, lo dico in particolare rivolto a me e mi permetto anche ai piccoli grandi di questo nostro territorio che hanno la responsabilità di esercitare l'autorità, quando una persona è grande scompare. Perché quello che deve fare lo fa sotto gli occhi di Dio, non sotto i riflettori degli uomini. E qui nel Vangelo di oggi veramente San Giuseppe dà una lezione straordinaria, adesso lo vedremo insieme. È un grande santo, veramente uno straordinario uomo. Sapete che da poco è terminato l'anno dedicato a San Giuseppe con tutti quanti gli onori dovuti. Allora, cosa è successo nel Vangelo di oggi? Lo vediamo insieme. Io ho sotto gli occhi anche il testo greco, perché è fondamentale cogliere alcune sfumature che non si colgono nella traduzione. Allora, così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Attenzione adesso. Sembra una cosa normale, no? Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Non è proprio così, nel senso che è molto più che così, perché in questo versetto c'è tutta la statura straordinaria, morale e proprio di vera e propria santità di San Giuseppe. In greco c'è scritto non poiché era giusto, dikaios on, quindi essendo giusto. Attenzione, il verbo è e non volendo, sempre al non accusarla pubblicamente, già un po' meglio della traduzione del 74 che diceva ripudiarla, ma è questo verbo, che è un verbo non molto frequente, che è deitmatizzo, significa letteralmente proprio fare un pubblico spettacolo. Cioè, se avesse accusato la Madonna sarebbe successo un cinema, noi diciamo, perché capite, no? Attenzione, poiché era giusto e non voleva ripudiarlo, noi pensiamo siccome era giusto non voleva ripudiarlo, ma attenzione, la giustizia, dica io se è proprio il termine nella Bibbia, è giusto chi osserva fedelmente la legge di Dio. Questo vale anche per noi, che è la legge al di sopra di tutte le leggi e a cui tutte le leggi si devono raccordare. Voi sapete che quando una legge non obbedisce a quella di Dio, e qui San Giuseppe adesso vedremo cosa fa in coscienza, noi dobbiamo sempre obbedire a Dio e a tutto ciò che è compatibile con ciò che Dio vuole. Allora, se Giuseppe avesse osservato la legge, sapete cosa diceva la legge? Se una persona è incinta prima del matrimonio, vuol dire, c'erano già state fatte le promesse matrimoniali, dal momento delle promesse matrimoniali si considerava già la donna come se fosse la moglie. Che delitto era, ed era un delitto gravissimo a quei tempi, non come oggi, adulterio. E che cosa diceva la legge di Mosè sugli adulteri? Che la donna adultera deve essere denunciata e pubblicamente lapidata. Quindi quelle non è, cioè non sta bene, ma in realtà quello si chiama un kai disgiuntivo, lo usiamo anche noi qualche volta, cioè noi sentiamo, diciamo, se traduci letteralmente, Giuseppe, essendo giusto e non volendo ripudiarla, decise di, ma non è proprio così, non volendo fare la sceneggiata, lo spettacolo pubblico, ma dovremmo tradurre Giuseppe che era giusto, ma non volendo ripudiarlo, non è né, ma, perché lui in questo momento non sta osservando la legge di Mosè, perché si prende la responsabilità di dire, non lo posso fare. La legge direbbe questo, ma non lo posso fare. Non la posso neanche trasgredire frontalmente, quindi fare come se niente fosse, quindi la prendo e la sposo come se niente fosse. E che cosa fa? Decide di rimandarla in segreto anche qui. Il verbo apoliusa proprio significa ti lascio andare, ti lascio libera. Cioè, io non ci entro dentro questa cosa, è una cosa più grande di me. Lasciamo perdere. Capite cosa sta facendo? Capite perché nelle litanie di San Giuseppe si chiama Iosef prudentissime. Questo lo dica a me, lo dica anche a voi, la virtù cardinale della prudenza. San Tommaso diceva che la regina delle virtù, che si definisce così, la retta ragione delle cose da farsi, che diventa difficile esercitarla quando le cose diventano complicate, che ti trovi dinanzi a situazioni estreme, limiti. Che facciamo? Voi sapete che i farisei, gli scribi contro cui Gesù si è attaccato, c'erano due tipologie di farisei e di scribi, una buona e una cattiva. Quella buona erano i farisei che osservavano la legge al millimetro, ma la osservavano loro per primi e ne esigevano l'osservanza. Poi c'erano invece quegli altri cattivi, cioè gli ipocriti, quindi quelli che si atteggiavano da santi e obbligavano gli altri a osservare le leggi, e Gesù dice voi non le sfiorate neanche con un dito. Ma Gesù corregge anche i farisei strettamente osservanti, perché anche la saggezza dei romani, qui sicuramente le nostre autorità sono al corrente, sapete cosa dicevano i romani? Summum ius o summa lex, a seconda delle summa iniuria. Cioè l'osservanza proprio legalistica, cieca della legge, perfino della legge di Mosè, in certe situazioni, se tu l'avessi fatto, faresti il danno più grande che possa esistere. Con questo non significa, evidentemente, capite bene, che le leggi ce le mettiamo sotto i piedi perché non le dobbiamo osservare. No, ma ci sono delle situazioni in cui è difficile e noi non lo daremo abbastanza San Giuseppe per la sua virtù. E dobbiamo prendere esempio, quindi quando capita, in che sì, due cose. Quando la nostra coscienza, questo lo dico anche a chi deve prendere, c'hai dei dubbi, che faccio? Mettiti in silenzio, lo senti nel cuore. Anche chi non è credente, quando sta facendo la cosa giusta, che è quella che Dio vuole, quando dice faccio così, sentirà scendere nel cuore una pace profondissima. Tu ne sei convinto che quella è la cosa giusta, ma se tu dici faccio colà, anche se trovi la copertura legale, visto che io sto osservando le leggi, quindi a me non può dire niente a nessuno, ma non ti senti bene nel cuore, non stai facendo la cosa giusta. Questo la Chiesa l'ha sempre difeso, Il primato della coscienza, perché nella coscienza parla la voce di Dio, e la voce di Dio va osservata sempre, sempre. Abbiamo noi il compito e il dovere, insegna la Chiesa, di formarla bene la nostra coscienza, d'accordo? Però dobbiamo seguirla, e quando abbiamo qualche dubbio, mai essere precipitosi. San Giuseppe in sogno gli è apparso l'angelo, perché sapete che cosa ha fatto? Ha fatto la cosa che sempre si deve fare quando si è in crisi. Sapete qual è? Dormici sopra, non decidere subito. Dormi, magari prima di dormire prega, non dico che ti capiterà San Gabriele in sogno, forse no, ma stai tranquillo che quello che non si deve mai fare è, ma guardate, guardate che quasi nessun essere umano fa così, siamo sinceri, anche quando noi siamo sempre molto portati alle reazioni istantanee o istintive, capite? Mai, su questo veramente, capite? Cioè, ecco perché nostro Signore, quante altre volte San Giuseppe si è dovuto trovare in queste condizioni, no? Pensate all'altro grande episodio, quando Erode si mette a fare il matto, e anche lì vede anche come Dio porta avanti la storia. Cioè, i magi, Erode gli aveva ingannato, dice: oh, andate, dopo tornate da me, ma ci pensa nostro Signore, perché avvisa i magi di non tornare e avvisa San Giuseppe, non la Madonna, dice: guarda che bisogna partire subito. San Giuseppe si prende le sue responsabilità e dice: ragazzi, qui bisogna andare in Egitto, si sa quando si parte, non si sa quando si torna, me la prendo io la responsabilità. E si è rimboccato le maniche, e poi immaginate, capite, in Egitto, che cosa è successo in Egitto? In Egitto lui si è messo a cercare lavoro, perché non è che campavano d'aria, e ha mantenuto la famiglia con l'intraprendenza e con la capacità, con anche la sua buona volontà. È un uomo del tutto straordinario, quindi noi dobbiamo essere capaci di leggere attraverso il silenzio di San Giuseppe, perché è l'uomo del silenzio, perché capite, come tutti quanti grandi uomini, e concludo, sapete i grandi uomini come parlano, no? Non parlano con le parole. I grandi uomini parlano con i fatti. Le chiacchiere stanno sempre a zero. Sono i fatti quelli che sono sommamente eloquenti, anche quando non sono compresi. Sicuramente San Giuseppe non è stato compreso, ma davanti a Dio è stato il più grande di tutti. Capite? Dio l'ha sottoposto a questa grandissima prova, un po' come dice: vediamo un po' se sei degno di stare vicino alla Madonna e a Gesù, vediamo come reagisci dinanzi a questa cosa qui. Ha reagito alla grande. Impariamo da lui e poniamo le nostre vite sotto la sua custodia, e chiediamogli di darci grande prudenza e grande capacità di comprendere, ascoltare e decodificare la voce e la volontà di Dio nella nostra vita, perché solo seguendo sempre quella troviamo non solo la pace, ma anche la felicità anche in questo mondo. San Giuseppe, non dimentichiamo che si è vissuto il paradiso sulla terra, perché stare vicino per una vita fino alla morte a Gesù e Maria, insomma, certo, tante croci, ma anche, insomma, capite, stare vicino a Gesù e Maria vuol dire che si è fatto l'anticamera del paradiso quando era sulla terra. Quindi, quando ci sintonizziamo con Dio, la vita non è più l'anticamera per alcuni dell'inferno e per altri del purgatorio, ma diventa l'anticamera del paradiso. È il mio augurio nella festa di San Giuseppe per tutti e per ciascuno. Siano lodati Gesù e Maria.